dici te. Nasconditi tra le tue cose, non voglio il tuo pane, la tua pietà, ma tu non vedi oltre. Fatti strada nella nebbia solo cercando se vuoi, che la volontà è il principio di vita, ma tu non vedi oltre, ma tu Tu.